quindi azione conviene, che affidabilità zero. Poi per il resto è bravissimo e non c'è niente da dirle, per carità, io lo conosco la vita, però tutte le volte che le ho chiesto un'informazione, una cosa, facciamo un par di palle, non c'è mai venuto, ma sempre bruciato. Non so, anche ti ricordo il giorno che stavamo facendo quel lavoro lì da te, ma non hai detto Danilo, siamo vivi mia. Io lo so, ma lui sarebbe stato milionario se avesse avuto Cabu, perché nel lavoro suo è bravissimo, in elettronica, in elettrotecnica, si è adatta a tutto, muratura, di qualunque cosa dici, lui fa tutto, però dando in coso buono, se no ti bruciava la mente. Va bene, occhio un attimino di bianco ancora, se c'è qualcuno che vuole entrare, vai. Io sto lasciando anch'io. E io non ho sentito nessuno, va bene, non ne avevo molta voglia, ero stanco morto. Ero stanco morto. E vabbè, comunque adesso vediamo, vabbè, poi ce ne parliamo di persona, ci organizziamo. Se riesce a fare un salto, vedere almeno queste cose che mi servono in fretta, perché sono molto nel cancello, va messo, altrimenti ogni volta devo andare a aprire, ma anche quando sta piovendo, scendere, salire dalla macchina, eccetera. Quello va fatto subito, immediatamente. E poi c'è l'impianto centralizzato all'antenna, ci sono quei fari da mettere fuori, ci fanno un sacco di cose. Però ti ripeto, io affidabilità non è che ne ho molta assoluta. È bravissimo, però non mi gioco perché si comporta così, cazzo. Guarda, io posso fare anche una cosa, se domani non mi chiama, chiama Francesco, che sono sempre insieme, e Francesco lo prende, se lo carica e se lo porta. Dico, mi Francesco, tanto che sta cosa, tanto si mettono sempre in due, Francesco è una persona seria, serissima, lo prende e glielo posso accennare almeno a vederla. E cosa ti voglio? Ma tu devi portare l'alimentazione però al cancello, e quanti metri devi fare? Devi fare una sottotraccia, vabbè, se fanno, fanno anche loro, ti metti d'accordo con loro, tubo corrugato antimartello, uno scavetto leggero, un po' di cemento. No, abbiamo parlato, se fai i tubi quelli nei PVC a parete, altezza 30 cm, 40 cm da terra, è lì la corrente, nella stanza che c'è, quella che non è finita fuori nel giardino, lì c'è tutta la scatola, quindi si parte da lì e si porta al cancello, sarà se no 4 metri di roba. Ah, muro quindi fa. Sì, roba, non è faccio sotto traccia, no, c'è tutto il giardino, ma dove la metti? Muro, no, non me ne frega niente, è anche bellino. Sta fatto come si fa sempre. I soliti impianti così, capito? E si va poi alla centralina del cancello che va chiusa per le lumache, capito? Perché se no si mangiava la centralina. Sì, dai, vabbè, bisogna fare un'ispezione per vederla. Ok, vabbè, claro, io adesso devo mollare, che devo andare a casa di mio padre, che c'è mia figlia, di probabilmente mangiamo di lì. Ti saluto domani fino alle 10 mi trovi, se vuoi fare una scappata e ne parliamo a voce. Dai, ti saluto, buon proseguo, buona cena se devi farla, e saluto eventuali qua amici sul 10 che ci stanno ascoltando. QRT da parte mia, ciao ciao. Ciao, vabbè, ci passo così, ci facciamo una chiacchiera, magari andiamo anche a fare un sopralluogo, se ne hai voglia, 10 minuti, dai. Ok, ciao domani. Hola. Attenzione, canale 10, c'è qualcuno? Attenzione 10, c'è qualcuno in ascolto, K? Hola chicos. Bombolo. Ehi, buonasera. Vabbè. A poco movimento, Antonio. Allora, l'altra volta mi ha mandato un messaggio, mi era spezzettato, cioè non si capiva cosa mi avevi chiesto di quel baracchino, non si capiva all'inizio. Ho detto che era bello, ho detto che c'ho delle scariche stasera, ma pure tu ce li hai per caso? Delle scariche, andiamo. Che? Io non lo so fare lui, non mi viene bene. La boccina non mi viene bene. Sì, Anto, quello ce l'ho. Non ho capito se avevi chiesto da quando ce l'avevo oppure altre domande. No, da qualche mese ce l'ho quello. Qualche mese. Ma quello a 13 AM e 40 o 50 NFM. Facciamo si fa, ma che mi sente il blocco del crisi? Lo senti bene? Andiamo! E ti esce. Così è. Comunque, Anto, qua arriva un rumore. Qua arriva un rumorino. Non so cosa sia. Sembra quei telecomandi delle quelle macchinette radiocomandate anni 80. E fa un casino nero. Anche il profeta ha avuto un rumoraccio intorno al 14. Ogni tanto cambia 14, 13, 12. È roba elettronica che c'è in aria, dai, non ci puoi fare niente. Sì, da voi in occhi vabbiamo tutti quanti chi si cose, siamo attorniati, siamo di ripetitori e cavoli vari, immaginiamoci. Ah, tu, secondo me è un mangaglio di un negro che fa di contatto, guarda chi lo dubbio. No, chi su di lui era manico di baracqua? Fanno di cose, quanto circuito, con peso. Quando entra nel mangaglio, magari capita, fa di cosa circuito e ti fa di contatto all'antenna. Ah, fanno di chi tracca con la moglie. Allora fatti la di contatto con l'antenna. Ui, se l'avessi avuto solo più lungo, guarda, me lo sarei girato mai con l'ombrello. Se Marco, c'è un problema, io sono un amico, se vuoi te ne rompezzo. Se no ti arrivi, la bellezza. Andiamo, chiatta, vabbè, andiamo. Dai, un attimino, io già ho cenato, buona la pizza, ho fatto questa pizza alla fine del mondo. Come ho mangiato mezza mela, anzi, più di mezza mela, quasi una mela. Buono lo stesso, un pezzo di crostata, ho bevuto una birretta e sono come un garrigo, sto non bello di più. Ma questa è la pizza che ho fatto anche tu. Quella con le olive. È buona la pizza, te la sei fatta tu, già lo so che te la fai sempre tu. Tu sei buono, è buono, piccante, è buono, mi pare. Sì, allora, prosciutto, funghi e olive, mozzarella e l'olio piccante, beh, per forza, no, lo per gusto. Non è a tutti, guarda, io mi ricordo venerdì scorso, ho mangiato prima un panino, non mi è bastato lì in via Napoli, da Roberto, che è parente a Renato. E poi ho preso questo kebab, ho sbagliato, ho messo praticamente le patate piccanti, quelle al forno, no? E in più la salsa piccante, Sant'Antonio mio, mi stava scoppiando, credetemi, scoppiando. Stavo scoppiando, mamma mia, che vabbè l'ho preso dagli indiani, dai, via Napoli, lo fanno buono, questa volta non avevamo i butti più, era immangiabile, va, era un bel piccante, però me lo mangiate che avevo fame, tu pensi che lo stomaco mi stava bruciando. Dai, questa roba non ne mangio io. Andiamo a ogni tanto, mi ha detto, forse un anno non li mangiavo, ogni tanto glielo mangio. Ciao, ma proprio gli indiani, no, non ne compare giù nulla, io. Sì, vabbè, ma abbiamo mangiato la biscita. E tu ce lo mangi? Se ne ha fatti. perché te lo trovo l'altro lato che ha due euro domani. Ah no, ma io sono più educato, cioè mica... Cioè, cazzo, mica mi buco con il condimento, cioè no, non è giusto, ma, cioè, il sapore, cioè, non da me. Vabbè. Se prendi l'acqua, mi accetto, arrivo subito. Eia, ma la cipolla cruda la mangiate voi? No. No, sì che la mangio, in mezzo alla bumata. Perché un giorno in questo locale ho chiesto il kebab, però avevano finito la cipolla arrosolata, no? In padella, cotta. E ho detto, ma ci metta, se ce l'ha una cipolla ce la metta anche cruda. Cipolla cruda, oh, un bel pesante, forte, mi è come mangiare la cipolla a morsi. Ma era buono lo stesso. Kebab, no, mi piace un kebab, ma... A me piace cosa, mi piace... nei cosi da pongo, nei ribumati, nella ciabatta. Io poche cose non mangio, per esempio se mi dai bietola e cicoria fatta insalata così non mi piace, però se non la fai affrittata come gli spinaci, no, con l'uovo eccetera, allora la mangio. È una delle poche cose che non mi piace. Cappa, no, anch'io, come si dice, no, sono comune di questa cosa, devo dire una cosa, ma no, non me la ammetto. Io le bietole le mangio così, le mangio, sai come le condisco? Un pochettino di olio e il buco azzetto, una reddito. Ehi, in realtà poi se ho molta fame mangio anche quello, però preferisco evitare. Mi piace proprio con l'uovo, affrittata. Gli spinaci ancora, però siamo sempre lì. Ehi, se vedi le note, adesso mi metto qualche film, o qualche TV, o qualche serie, e vediamo cosa trovo. Una volta ti stavi lamentando che... Cos'era, in un ristorante ti avevano dato una miseria a mangiare, tu avevi detto la roba da mangiare era il gatto, cioè porzioni misere. La giotta la diraiata mi ha regalato il gigione, che ce n'era poco, io non ero d'accordo. Ma che ristorante era? Cos'è? Quei ristoranti fiaghini? Non vado in ristoranti fiaghini, no. Ho portato torre sera, però me ne ha messo poco e non ero contento. Certo, quando vedi che le porzioni sono... Se no quella sembra quel film Ricchi e Barabba. Te lo ricordi che ho pozzetto e... E De Sica, che vanno in questo ristorante di lusso, gli danno mandorle e me, due fettine di mela e due mandorle. Attivamente. Che cazzo, a me la mangia. No, vabbè, me ne ha messo poco, però mi ha portato un bel di antipasti, mi ha portato. Vabbè, fatto saga, cioè, ci siamo accontentati lo stesso, però non ero contento, volevo più pasta. E ho mangiato qua, Corte Santa Maria, ho mangiato e via linguine, le vongole, si può fare, e poi abbiamo mangiato un'altra cosa che non mi ricordo, non mangiato. In trattoria non ti sbagli mai, Anto. Se vai in trattoria, bene o male, ti trattano sempre abbondantemente bene, mangi quanto ne vuoi, roba buona, roba sana. Il ristorante, no, non tanto, per quanto io non ami nemmeno il ristorante, mangiare il ristorante. Mi piace più la roba rustica, tipo trattoria, capito? No, dove vado io si mangia lei, non ti preoccupare. Ehi, ogni tanto compare quel rumorino, una specie di trrr, non so come definirlo. Guarda, è lo stesso rumore di un telecomando della macchinetta radiocomandata che aveva mio cugino negli anni, porca miseria, lui è dell'81, e 85, 86, faceva lo stesso rumore, ma questo è continuo, e si sposta da un po' da un canale all'altro, non è proprio centrato. Bene, Anto, io ti devo lasciare, ok? Ci sentiamo quando capita. Ciao anche Luca, sei rientrato, e ciao gli ascoltoni. Ciao ciao. Sì, sì, non so cosa sia. Poi addirittura sul 14 rintorni ce n'era uno ancora più forte, proprio un rumoraccio, ed era roba che cambia di frequenza, non ho capito che roba sia. E questo è niente. Tu non c'eri, Antonella. Tu negli anni 80 eri rientrato? C'eri già o no? No, è troppo piccolo. Negli anni 90 sì. E forse già l'hai conosciuto, la radioterapia del policlinico. Roba di casino che dava, queste frustate che dava su tutti i canali. Lo sentivi su tutti e 40 i canali. Capito? Mi pare che il canale lavoro era un canale alfa, credo. Ma disturbava tutti i canali, capito? E poi c'era il famoso Russian, quella radar russo, no, per disturbare. Non per disturbare, vabbè, avrà avuto altri usi. E disturbava tutta Europa. Roba di casino niente che faceva a me. Vuol dire che viaggiava in AM. Vuol dire che viaggiava in AM. Faceva così. Che cose che dico il male, ma io c'è che se capiti, cosa ne so, vicino a un ponte telefonico, se tu piatti l'antenna dice che è finito di modulare, vero? Beh, mi sembra Eugenio. Ciao Eugenio, sono io Liscio, mi sentirei basso. Guarda, io il ponte telefonico della Vodafone ce l'ho a 30 metri, credo che siano 30 metri misurati, 30-40 qua, però il 27 problemi non ne dà. Invece in PMR con i Bao Bao, siccome c'hanno un ricevitore economico e poco filtrato, mi butta giù tutti i segnali medio-bassi, mi annienta i segnali, senti solo quelli forti, quindi è inutile. Invece il ricevitore colpi non ne prende, il ricevitore è più filtrato, capito, più schermato. Nianto, non ti lascio solo, avanti Eugenio. Buonasera oggi. Buonasera. Ti volevo dire un'altra cosa, ti volevo dire. Cavolo, però dice che se ce l'hai proprio nel palazzo e tu metti l'antenna lì, dice che ti crea un buco di problemi. No, io oggi non ti capisco, ecco. Oddio mio. Tu ci hai capito qualcosa? Cazzo, mi sei tornato a ripresentare il suo rumore. E può darsi che sia lo stesso rumore che ha Eugenio. Ha detto che ti porti un rumore strano appresso, Anto. Potrebbe essere quel disturbo che da lui è più forte. Bisogna vedere dove ha origine. Comunque, Anto, conta una cosa. Certo, se tu metti l'antenna sullo stesso terrazzo dove c'è l'antenna, è lì, è a pochi metri, cioè è incollato, magari qualche problema te lo dà. Però siccome dubito che se c'è un ripetitore telecom te la facciamo mettere l'antenna, in linea ipotetica, no? Cioè loro per evitare rogne ai loro impianti hanno i soldi e vincono loro alla fine, qualche parole. Non lo so oggi cosa cavolo c'è, ogni tanto mi portava questo rumore, vabbè forse qua c'è la ventola del coso, vabbè, come si dice, sì. Se l'antenna esiste già la mia e tu mi poni chissà cosa, ti conviene togliermelo qualcosa, perché se non me lo togli esistono le cesoie. Ho problemi con la mia antenna. Lo senti, Anto? No, cavolo, c'ho questo rumore, lo sento, lo sento, non lo sento, lo sento, non lo sento. No, questo fastidio stanotte. Ma dove cavolo è uscito? Sto uscendo, no? Sì, sto uscendo. Proprio io mi posso dire che come l'ha fatto l'altro fattore, ma sto uscendo, sì. Sì, sì, assolutamente sì. Ma c'è un rumore elettrico intervallato sul canale e, che ha una frequenza anche un po' variabile, no? Quando ho chiesto se lo sentivi era riferito a quel rumore, ha attaccato proprio in quel momento, più forte, cioè più forte che mai. No, però tu avrai parlato a che cosa, ma rompiti di cattore, no? No, no, no, chissà cosa è, nel telecontrollo, io non so che tipo di roba possa essere, ma di solito si trovano sui canali alfa. Sul 15 alfa, per esempio, c'è un segnale che trasmette una specie di treno di dati, non so cosa sia, sembra in FM. Telecontrolli, adesso non te lo so dire, non te lo so dire ancora. E io, sai, sono le 9, io no, sono passate le 9, io devo staccare. Dai, rilancio Eugenio. Volevo dire Eugenio, allora tu sei a radio fredda, no? Quando è calda, molto calda, il segnale tuo l'avevo visto, arrivi 8:30, quindi ottimo. Come ce l'hai, Marco? Eia, adesso sei 8 modulato, quando è caldo arrivi 8:30 costante, da segnale pieno, capito? Non oggi, un altro giorno che ti ho sentito per caso. Sì, vabbè, ho detto, guarda che fredda, lo accendo da poco. Lascerò scaldare 5 minuti così mi ascolto, ma non basta, adesso devo scaldare un po'. Anche a me è meglio ritratto oggi, ma com'è che è sparito questo rumore? Capo, anche da me è meglio ritratto. Capo, ma non sta dicendo con la sua sulla radio. Ci sono contratti scherzati, come mai? Cos'è? Ma sta scherzando? Non sto scherzando. Ma la sua sulla radio, ci sono contratti scherzati, ma io sono passato in bocca. È possibile. Io sono sempre quella radio lì. Forse perché sono lontano dal microfono, guarda a vedere adesso. Sì. Sono lontano, ma parecchio lontano. Capa, io parlo un pochettino, qualche centimetro di più. Adesso va bene? Adesso si è tornato quello prima, va benissimo. Capa, e quanto mi ricevi lì? Questo segnale qua è un po' basso, schiappa un po' tanto. Picco più così, quanto è adesso? Allora attacco l'87 con la Marava e vediamo quanto arrivo lì. Quanto è? 5, quanto è? 5-6, quant'è? Ecco sì, da rimettarti sì, cambiamo qua dopo 2-5. Cappa, mi aspetti, cambio radio, del vuoto vedi cosa vuol fare, aspetta 2 secondi. Allora sono qua. Eia, nel tempo che riprende Antonio e stacco del tutto, dai, che mi guardo roba in TV. Io sempre sei sono, da liscio e tutto. E voi non mi copia nemmeno. Eugi, Luca, sei rientrato? Attenzione, Eugenio. Poi sono qua. Marco, scusa che sto parlando con voi. Dimmi, sto parlando a tutti. Con le 3 prova, guarda come ti arrivo lì a Porto Torres. Un'altra cosa, da quando sei, non guarda solo, o prima eri 4-5, adesso sei a 6-7, cambiato tanto. Vabbè, però il tuo discorso, forte arrivo lì da te, no? Adesso sì, un'altra cosa. Gappa Marco! Sì, l'87 dovrebbe essere, all'anno 87, dimmi tu. Una traiettoria. Sai cos'è? È questione anche di ricevitore, di altoparlante, a chi piace più una radio, a chi più un'altra. Poi ricorda l'anno 87 è come un 3009 dentro me, siamo lì. Sono radio che vanno bene, come il Typhoon, come il Pluto, eccetera. No, Eugenio, chiedevo se nudo e crudo sempre sei il segnale o è più basso. 3,5 watt effettivi. Io sono io sotto corrente, Marco, sotto per così, fermo, la coda è alto, fermo, lì io non so corrente. Capito? Noi la radio come scalda da un po' di più basso, però non so corrente. Ehi, ma io ho detto sempre uguale il segnale mio, nudo e crudo. Ah sì, sì, sì, tu hai detto senza voci, perfetto. Ehi, va bene, provate a chiamare Luca, se vede se rientra io stacco. Dai, mi attacco la TV e voglio coricarmi. Ciao Antonio, ciao Eugenio, Luca c'è l'ascolto e tutti quelli d'ascolto, dai, chiudo quelli qui, ciao ciao, vai Eugenio. Ciao Marco, ci sentiamo. Ciao, oggi questo è l'87 con qualcosa. Cosa tu dimmi, dimmi che ho ho detto che è l'87 con una cosuccia attaccata, va. Comunque con questo stava lavorando. Lo so, leva un po' più l'antenna perché è troppo bassa. E poi vedrai che va anche quello. Ah, fai l'antenna, solleva più l'antenna. Oh, già capito lo tocco qua, non è un problema. Kappa, oggi, rompe troppo. Sempre quel problema là. Che problema? Ma tocco di mio? No, il problema è che è bassa. Appena che il lazzo verrà di qualche metro, verrà che a fornitore se mi senti meglio. Sì, ma se continuo a usare questo apparato, andiamo dal buco, andiamo su questo. Cappa, e io a pompa pure l'altro. L'altro non c'è questo. L'altro è un'altra cosa. E andiamo bene anche questo. Questo è la 87 col... qualcosa, col... MB+4. Andava bene. Ma che da volte non me l'hai mandata? Ma se ti hai giù, hai giù bassa, appena le 4 qua, se non muovi il telefono, te lo mandate. Vediamo con calma, dai, tanto adesso, piano piano, una cosa alla voce. Uia! Ma cosa c'è con le ventole? Cosa? Le ventole, si sentono molto. Si compra molto? Adesso le ventole si sentono molto. Ah, no. Il mio nato si presenta, il subgabo di Vassilio si presenta, e non che. Stanotte mi doveva vacillare questa roba qua. Lo sente anche Marco, sente la stessa storia che sento io ogni tanto. No, che siamo attorniati di tutto, siamo attorniati. C'è attornati un poco, faccio un grattacielo, quello del, come ti dici, i noghi sopra che è pieno di antenne di telefoni, i noghi in via di Sicilia, ha un ripetitore, la matrice in goda, da pure i noghi vicino viene un altro. Un cocio è di un macello, c'è il grattacielo che ho attaccato oggi, pieno di antenne, è vero? Ma quelle sono anche potenze, cosa aveva fissato? No, ma se salgo sul tetto io vedo quello lì, è in alto però, e sono tutti i disturbi che si poi si formano nell'aria e girano le scatole a te, manco mai non ha di chi si ripete in torre, no, che si è stato un macello. Via, andale, ma io faccio sul pulitore. Meno male, se mi avrebbe fatto lo dici si gode, ti giuro che sarebbe la tua Giulia per avere barrato, mi ha detto, ma poi voglio vedere a forza di pagarsi le gambe e tutte le cose, voglio vedere se lo muore ancora. Oggi non è travagliato. Ehi, che ti ho travagliato. Ma cosa è una rivendita? Ehi, ecco, una da dieci litri, quanto costa lì? Ma presa o portata? Ah, qua. Da 10 kg, 20 euro viene se me ne ha pigliati da due. 20 euro. Ma può fare buttare? Non ho capito, in contanti. Uguale. Paga contanti, c'è profano o buttano? Ci abbiamo tutti e due, ce li abbiamo. E poi io, uno è profano e l'altro è miscela. Miscela, il buttano va su quelle bombole blu, su quelle la buttangas. Va della liquigas su quelle corte va il buttano. Lo fanno apposta, lo fanno la Saras per la liquigas. Quella sulla esoluente il buttano. Quella che tu trovi normalmente è miscela. Ma ci abbiamo anche il profano noi, eh. Perché io la metto sul camper da 10. Da 10 kg, se no uso solo il profano. Sì, avremo. E ce l'abbiamo già. Io capisco. E d'estate vediamo molto per i camper, perché noi abbiamo anche il posto grande e quindi vengono da noi, vengono. Ma cosa? In via Milano, eh! In via Milano... Non c'ho presente. Mi sono per via Napoli. Non posso capire. No, fammi vedere un'assicurazione in Chibi. C'era la cattolica prima. Ti giri con un camion già, lo sai? No, ma io non sono camionista. Cosa fai? Trasporti? No, negativo. Vabbè. Se hai girato già lo sai dove siamo. Cioè dove c'è i punti là. Già la conosco, già mi danno. Già la conosco. Va bene, tu vai, io farò cenare, ci sentiamo dopo insieme, va? Ok? Ehi, ciao G, ci sentiamo. Ma com'è che pari dove c'è un rumore? Dai, dopo sono 12. Sono 12 amici. Dopo cena, ciao. Ciao.